and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Bambini e musica, un binomio perfetto, Drago. Ma noi da mesi, da anni, da sempre siamo per l'insegnamento indiscriminato della musica a tutti i bambini. Indiscriminato? Sì, anche a quelli stonati come una campana, anche a quelli come Drago. No vabbè, a X Factor in televisione, guarda che fino a poco tempo fa c'era uno che aveva un sacco di problemi. Era stonato come una campana, però cantava. Male, ma cantava. Vedi che bisogna insegnare. Vabbè, insegniamo la musica ai bambini. Drago, insegna la musica ai bambini. Insegna almeno ad ascoltare la musica, però anche a suonarla. Vedi, per farlo bisogna combattere contro consuetudini polverose. La scuola ti impone degli strumenti che uno non ha voglia di suonare. Il flauto dolce, basta col flauto dolce. La melodica o diamonica, basta con la melodica o la diamonica. Liberiamo la bocca dei bambini dai flauti dolci e dai tubi della melodica. O della diamonica. Della diamonica, sono intubati. Facciamo sì che i bimbi possano cantare accompagnandosi con uno strumento. Uno strumento adatto a loro, uno strumento adatto a tutti. E questo strumento non può che essere... L'ukulele. Eh sì, piccolo, facile da imparare ed anche economico. Sì, tu parli, però non l'hai mai imparato a suonare. Vabbè, io dico così. Bambini, suonate l'ukulele, fate come Seba. Sto suonando l'ukulele, tandi tandi tan. Però la campagna di sensibilizzazione per l'ukulele nelle scuole ha bisogno della collaborazione fattiva del ministro della pubblica istruzione. E chi è? La bambina ministra Gelmini. Che però non è adatta a fare il ministro della pubblica istruzione. Ma chi lo dice? No, il bambino Sgarbi. Ah, già. Vuoi chiederglielo di nuovo? No, stavolta no. Dai, grazie. Sappiamo già tutto quello che pensa il bambino Sgarbi della povera bambina Gelmini. E sai anche chi è Geminello Alvi. Lo so perfettamente, inutile insistere quindi su questo argomento. Piuttosto dovremmo cominciare, a mandare delle mail al ministro. Cosa dici? Delle mail? Delle mail dove spieghi vorrei insegnare l'ukulele nelle scuole. Proviamo. Comincia. Stimatissimo ministro, la presente per ricordarle l'ukulele, strumento a quattro corde che tutti associano alle Hawaii, ma che in realtà proviene dal Portogallo e che ha una serie. Egregio ministro Gelmini, la mia precedente email è rimasta senza risposta. Probabilmente un disguido, dovuto ad alcuni problemi di software che so che affliggono i circuiti stampati dei computer. Gentile Maria Stella Gelmini, con molto dispiacere devo prendere atto di non aver ancora ricevuto risposta alle due precedenti email sulla questione dell'ukulele, lo strumento nato a Hawaii. Carissima Maria Stella, credevo che allacciare con te fosse un po' più semplice. Mi sembravi una ragazza alla mano, senza occhiali poi anche mica male. E invece non rispondi alle mie email. Io devo ricredermi, non sei come ti credevo. E quindi devo ricredermi, perché io credevo che tu... Maria Stella, il tuo silenzio comincia a preoccuparmi. Devo forse pensare male? Devo forse pensare che non mi ami più? O che hai un altro? Maria Stella? Maria Stella? Rispondi, rispondi tu, perché sennò io non rispondo più di me stesso. Maria Stella, rispondi! Rispondi, Maria Stella! Maria Stella! Rispondi, vieni giù! Vieni giù! Chiedo asilo! E continuiamo con la musica, freschissima la notizia, la notizia che riguarda i Bon Jovi. No, come i Bon Jovi? L'ukulele, draghi, no, Bon Jovi esistono ancora? Eh sì, la stessa cosa che mi sono chiesto io, la risposta in me è sì, ci sono i Bon Jovi, esistono ancora, appena uscita una loro raccolta, non si sentiva per niente la mancanza nella discografia. Però il gruppo ha donato, bisogna dirlo, $10,000 a Children in Need, che è un'organizzazione inglese che si occupa di bambini poveri e dimenticati da tutti. Quindi musica e bambini, ancora una volta, binomio perfetto. Sì, però $10,000. Sì, pochini, eh. Sì, ma anche loro, poveretti, fanno quel che possono. Ma scusa, sono rockstar. Sì, ma lo erano, capito? Adesso sono tempi di vacche magre per gruppi così. Dici? Sì, io me li vedo. I Bon Jovi, non so, gli Europe, gli Aerosmith, tutti insieme con i capelli lunghi, un po' grigi, al bar, che parlano dei vecchi tempi. Quando avevamo il mondo ai nostri piedi, eh? E ogni tanto uno si alza, tutto vecchio, fa una solo di chitarra con la voce. Che tristezza. Vabbè, adesso dobbiamo parlare sempre di bambini, ovviamente, ma più nello specifico di bambine. Eh sì, perché come diceva il poeta, o meglio, parafrasando il poeta, le bambine dell'asilo stanno facendo casino. Sì, ci va qualcosa per tenerle occupate. Occupate, cosa? Non lo so. Che cosa ci va? Non lo so, perché le bambine dell'asilo in questione si chiamano Noemi Letizia e Ruby Rubacuori, una 19 e l'altra 18 anni. Tutte e due famose solo per aver cenato dal bambino premier. E ora stanno litigando a distanza. Perché la bambina Ruby ha detto di aver visto anche la bambina Noemi a una delle cene ad Arcore del Bunga Bunga. Solo che la bambina Noemi non è d'accordo e minaccia querele. Ecco, ma la domanda che sorge spontanea è: si può davvero venir querelati per aver detto di aver visto una persona a cena a casa del bambino premier? Vabbè, Bunga Bunga, d'accordo. Una volta di sicuro no. Adesso magari sì. Mi hai visto ad Arcore? E io ti querelo. Vabbè, ma una volta facevano tutti la gara a dire di esserci stati, adesso tutti a vergognarsi. È così che gira la moda delle cene. I salotti mondani hanno una vita brevissima. Cambiano le mode, cambiano i salotti, cambiano gli... Ma povero bambino premier, le sue proverbiali cene con pasta tricolore, mozzarella e concerto di apicella incluso non tirano più. Ma per lui sarà una condizione dolorosissima. Dove le va a raccontare adesso le sue famose barzellette? Ma non so, al G20, all'ONU. Pinocchietto va a palazzo. Pinocchietto va al palazzo. Con i libri sotto braccio. Con i libri sotto il braccio. La lezione non la sa. La lezione non la sa. Certo un 4 piglierà. Con il 5 non si passa. Con il 6 così così. Con il 7 benvenino. Con il 7 benvenino. Con l'8 benvenotto. Con il 9, professore. Con il 10, direttore. Con il 10, direttore. Chiedo asilo. Bambini all'ascolto, per essere felici dovete essere figli unici. Ecco, questa è la novità dell'anno per quanto riguarda le cazzate pseudoscientifiche. Scusa, si era sempre detto che era meglio avere fratelli che essere figli unici. Ma è come tutto, per qualche anno si crede che il colesterolo sia dannoso, poi ti dicono che c'è anche quello buono, poi è di nuovo tutto cattivo, poi di nuovo buono, e intanto la gente continua a far diete, a interromperle a seconda di quel che dicono gli scienziati. Adesso è così con i fratelli, i figli unici, tutti lì a rimanere incinte. Aveva capito tutto Rino Gaetano, Drago. Chi? Rino Gaetano. Perché? Sì, cantava Mio fratello figlio unico. No, adesso non far finta di conoscerla. No, non la so, infatti. Però la cantava. Però la fonte prestigiosa di questa notizia sui figli unici è una istituzione britannica che si chiama Economic and Social Research Council. Hanno fatto una ricerca, coinvolto 2500 giovani, però il risultato è lo stesso che potevi avere chiedendo anche qualche parere a caso per strada. Per esempio, ora abbiamo la prova scientifica, dicono che crescere più figli è faticoso per i genitori. Poi sappiamo che i fratelli litigano e che tocca ai genitori fare da arbitri e quindi si stressano tutti quanti. Sappiamo anche che i fratelli grandi fanno bullismo contro quelli piccoli. Insomma, sono novità sconvolgenti, queste. Non si sapeva niente di tutto questo. Sappiamo che invece se cresci da solo cresci più tranquillo e protetto. Bisogna vedere poi cosa succede da adulti. È logico che da ragazzo preferisci stare da solo piuttosto che con un fratello manesco, ma poi da adulto sarai poi capace di affrontare un estraneo manesco se non ti sei già allenato col fratello manesco? Economic and Social Research Council questo non lo spiega. Si vede che Maneschi lì non sanno, non so, però il bambino Maurizio Costanzo però ha subito detto in un'intervista che lui è molto contento di non aver avuto fratelli, quindi dà ragione a questi qua del anche British noi, Council. Anche noi siamo contenti. Come anche noi, cosa c'entriamo noi? Scusa, pensa se ci fossero stati due Maurizio Costanzi o due Maurizio Costanzi o due Maurizio Scostanzi. Vabbè, ma mica si sarebbe chiamato Maurizio, il fratello. Ah già. Domani e mandate dei Maurizio Scostanzos a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo.